Storiacce di Raffaella Calandra. Quando il vizietto diventa connaturato all'organismo non è più un vizio, no? È una frequente ricorrenza. Questo significa che per entrare, diciamo, in queste grandi opere bisogna dare quasi un po' per scontato di dover passare attraverso il giogo della corruzione? Queste grandi opere sono sempre dipese dalla benevolenza del potere. Addirittura il potere arrivava, come nel caso della nascita del Consorzio Venezia Nuova, a costituire le compagini imprenditoriali. E quindi il potere che poi chiede qualcosa in cambio. E poi il potere chiede qualcosa in cambio, ecco. La mazzetta non è l'elemento più frequente. Sono forme molto più evolute che vanno dalle sponsorizzazioni alle assunzioni, al finanziamento delle campagne elettorali, costituiscono l'alterazione dei comportamenti propri di un'imprenditoria. Data per scontata ai tempi della Prima Repubblica, modificata nelle cifre e nei modi, la tangente in realtà non è mai passata di moda, nonostante le leggi, i proclami, le campagne. E così ritorna, sotto le più differenti forme, stando a quello che la cronaca giudiziaria rivela, quasi dietro ogni grande appalto, quasi dentro ogni importante cantiere, come l'obolo dato al potere per aver aperto le porte di un affare. Una costante la definisce chi l'ha incontrata varie volte nella sua lunga carriera da imprenditore. A Napoli come a Venezia, ai tempi di Tangentopoli come ora. E ora vuole raccontarla questa corruzione. Titolo del saggio scritto con la collega del Sole 24 Ore, Serena Uccello, per Einaudi. E la racconta e la spiega la corruzione ora, dopo aver patteggiato alcuni reati e collaborato con la giustizia nell'ultimo scandalo giudiziario che l'ha travolto, quello del Mose. E così allora, con un protagonista, con Pier Giorgio Baita, ci immergiamo tra le dighe che dovrebbero salvare Venezia, ma pure nell'acqua torbida di quello che resta il peggior vizietto italico. L'azienda, orgoglio dell'imprenditoria veneta, accusata di aver frodato il fisco e il sospetto, per ora solo tale, di tangenti. A finire in manette Pier Giorgio Baita, amministratore delegato della Mantovani S.p.A., un colosso che sta costruendo il Mose a Venezia, ha realizzato opere come il Passante di Mestre e a Milano si è aggiudicata l'appalto più sostanzioso di Expo 2015. Nessuna distinzione per i colori politici. La raffica di arresti eccellenti a Venezia nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte tangenti per il Mose non ha risparmiato nessuno a prescindere dai partiti di appartenenza. L'inchiesta, nata 3 anni fa su un giro di fondi neri, ha portato a 35 arresti. 100 sono gli indagati. Per i tempi dell'opera può essere paragonato solo forse alla Salerno-Reggio Calabria. Per la portata dello scandalo e il terremoto innescato dalle inchieste può essere paragonato forse a Mafia Capitale a Roma o per altri aspetti alle prime inchieste su Expo a Milano. Quello che le varie fasi dell'indagine sul Mose, il sistema di dighe che dovrebbe salvare Venezia dall'acqua alta, hanno ipotizzato è tra l'altro che fossero pagati veri e propri stipendi a politici e funzionari per oliare la macchina. A mettere mano al portafogli sempre il Consorzio Venezia Nuova, di cui faceva parte anche l'ingegner Pier Giorgio Baita, già amministratore delegato della Mantovani, uno dei colossi delle grandi opere. Pagavamo a destra e sinistra, finanziavamo tutti e il criterio non erano i partiti, ma le persone funzionali al consorzio, ha dichiarato nell'aula del processo e ora qui. Prima di Tangentopoli si entrava nelle grandi opere grazie a vicinanza politica. Dopo Tangentopoli, grazie ai rapporti con l'alta burocrazia. Oggi, per entrare nelle grandi opere, serve la finanza. Come ha visto cambiare la corruzione dagli anni di Tangentopoli agli anni di oggi? Cosa le veniva chiesto nei tempi di Tangentopoli? Nel 92 il rapporto era diretto tra imprenditori e strutture politiche. C'erano i famosi segretari amministrativi dei partiti. Dopo il 92 i partiti diventavano quasi succubi dell'alta burocrazia. L'alto funzionariato gestiva tutte le procedure. Il potere oggi, quello che bisogna ingraziarsi, è quello con i grandi gruppi finanziari. Le faccio una domanda un po' brutale. Vuol dire che per un'azienda che realizza grandi opere è un po' inevitabile pagare tangenti anche se mascherate volta per volta e in abiti diversi? Pagare tangenti si può evitare, ma certamente non si può evitare di dare il proprio contributo al potere che governa l'opera. Assunzioni, può essere subappalti, che può essere avere fornitori specifici. Oggi, con la scarsità di risorse pubbliche, il sistema sta tendendo a diventare più virtuoso. Di un sistema dunque più sofisticato di corruzione, esistente ora, parlava anche un altro protagonista dello scandalo del MOSE, ma dall'altra parte del tavolo, il procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio, anche lui, come Baita, protagonista diretto su fronti opposti della stagione di Mani Pulite. Avendo trattato personalmente Tangentopoli 20 anni fa, potrei dire che la gran parte delle caratteristiche è simile, per non dire uguale. Anche molti protagonisti sono gli stessi. Le corruzioni non sono state pagate con gli utili delle aziende, ma attraverso un sistema di sovrafatturazioni e di retrocessioni delle somme che erano state pagate ai fornitori, ai falsi fornitori, e che queste somme sono state poste in detrazione tributaria, doppiamente grave perché alla fine le tangenti le ha pagate il cittadino. Baita ha patteggiato la parte fiscale, poi entro fine anno dovrebbe esserci la sentenza per questo processo che rappresentò una nuova Tangentopoli e che portò, insieme all'allarme su Expo, alla creazione dell'autority anticorruzione. La corruzione, dunque, la tassa occulta degli italiani, come la definì l'attuale procuratore di Milano, Francesco Greco. E allora si torna a parlare di questo rischio, proprio come del rischio infiltrazioni della criminalità ogni volta che c'è in ballo una grande opera, come ora di nuovo il ponte sullo stretto di Messina. E allora? È una situazione nella quale si ripropone uno schema. Vanno bloccati i ladri, ma non vanno bloccate le opere. Fermare i ladri ma non bloccare le opere, sintetizza il ministro dell'interno Angelino Alfano. Operazione non così semplice però, visto che a quanto pare la corruzione è parte integrante di un sistema più ampio, dove chi non ci sta viene fatto fuori, come pure questa inchiesta sul MOSE ha confermato. E allora anche Baita, a quanto racconta nel saggio Corruzione e ora qui a Storiacce, è stato parte dell'ingranaggio che, calendario alla mano, ad esempio, decideva finanziamenti vari in vista delle elezioni. Io ho sempre visto che la corruzione si annida nelle pieghe dello spreco. Per cercare un po' anche di capire il meccanismo, ci si può sottrarre al pagamento della mazzetta classica, quindi dei soldi nella busta, ma non ci si può sottrarre a quello che il potere chiede in cambio dell'appoggio sostenuto. Perfetto. Per l'appalto, giusto? Lei ha rappresentato esattamente il mio pensiero. Però questo vuol dire anche che in queste, chiamiamole prebende, che il potere chiede in cambio, ci stanno anche i finanziamenti alle varie campagne elettorali? No, certo, in varia forma, anche lecita, no? Ma ci faccia anche un po' degli esempi concreti di quello che a lei direttamente è capitato. Dopo il 92 si è creata una classe di soggetti economici intermedi tra pubblica amministrazione e imprenditori. Consorzio Venezia Nuova cos'è? Una struttura intermedia tra gli imprenditori consorziati e l'amministrazione pubblica concedente. Per 20 anni, quando c'era il comitatone che doveva ripartire i soldi dei finanziamenti per Venezia, nell'anticamera del consorzio c'erano i sindaci, i presidenti delle province che si dovevano mettere d'accordo col direttore del consorzio su come avere i soldi. Una delle funzioni che hanno è appunto espletare quella ricerca del consenso. Questo significa che sono venuti da lei a chiederle sostegno per le campagne elettorali? Dal consorzio, certo. Il quale ripartiva tra i propri soci questo sostegno. Quindi vuol dire a seconda anche dell'influenza del singolo partito, del singolo politico? Il consorzio operava a 360 gradi. Quindi sostegno elettorale ai politici di ogni schieramento? Sì. E questo infatti si è visto anche nel carattere bipartisan degli arresti che ci sono stati. Seguiva il potere che in quel momento governava. E questo comunque era da tutti voi percepito come un passaggio inevitabile. Quando sono entrato nel consorzio nel 2002, questo sistema era bel che costituito e accettato da tutti i consorziati. E io mi ci sono adeguato anche perché, avendo fatto un investimento importante, per entrare nel salotto buono non ho avuto la forza in quel momento di mettere a soqquadro il salotto buono che era stato creato in tanti anni. E il consorzio non arriva al 2002 per caso, superando indenne tutte le bufere. E perché cosa c'è dietro? Perché aveva un budget da rivolgere alla ricerca di consenso che nessun imprenditore singolarmente avrebbe potuto permettersi. Il 12% era un budget destinato al consenso, per l'80%. Laddove in questa formula ci stanno quelli che in altre epoche forse si sarebbero chiamati fondi neri? O non necessariamente proprio... neri, ma non necessariamente riconducibili all'azione corretta imprenditoriale. Quando si avvicinavano scadenze elettorali precise, ecco, come si stabiliva, diciamo così, no? Quanto, come accantonare? Questo lo stabiliva la struttura del consorzio, una volta che decideva le strategie, ripartiva gli oneri tra soci. Ma corruzione significa molto altro ancora, eppure qualcosa di buono anche si muove. Da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. A tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Storiacce. L'impresa dà le tangenti perché ha bisogno di lavorare, quindi le considera, impropriamente dico io, ma le ha sempre considerate naturalmente un male necessario. È necessario pagare per lavorare? È necessario mettere soldi nelle buste o assumere persone in poste o ancora sostenere le campagne elettorali o in altro modo mettere mano al portafogli per ingraziarsi il potere e riuscire quindi a lavorare? Per decenni è stato così. Per lunghe stagioni il fattore C, la corruzione, è stata una voce costante nei bilanci delle imprese, mascherata in mille modi. E così avveniva anche sotto l'acqua di Venezia, tra le dighe del Mose, la grande opera voluta per salvare la città, prima che l'inchiesta della magistratura non arrestasse imprenditori e politici e non denunciasse, anche in questo caso, un complesso sistema di corruzione, per dirla con l'esplicito titolo del saggio scritto da uno dei protagonisti dei lavori in laguna e quindi delle indagini, l'ingegner Pier Giorgio Baita, ex amministratore delegato della Mantovani, insieme a Serena Uccello, collega del Sole 24 Ore. Calendario alla mano, ci sono le amministrative a Venezia. Sì, e... ce n'è un'elezione ogni 2 anni. 5-6 mesi prima, nel momento in cui la campagna elettorale entra nel vivo. Esatto. Il consorzio, attraverso la propria struttura, faceva la strategia, stabiliva i budget e poi li ripartiva. Con finanziamenti alle varie fondazioni, Sì, referenti elettorali, tutta la tipologia di sostegno. Abbiamo fatto l'investimento non per entrare in un gruppo che pagava tangenti, abbiamo fatto l'investimento, ci pareva un'occasione di lavoro per noi. Lo scopo non era partecipare al club delle tangenti, lo scopo era lavorare. Se c'è un'organizzazione che dice guardate che voi lavori non ne avete se non partecipate alle regole della casa, e lì avremmo dovuto dire no, adesso io sono socio, io non voglio cambiare questo andazzo. E questo non ve la siete sentiti perché rischiavate di essere messi alla porta? No, rischiavamo di non avere i lavori per poter ripagare il debito bancario che avevamo fatto. Se si entra in un meccanismo che poggia su questa regola non scritta ma condivisa, c'è il rischio che chi denunci o chi in qualche modo non accetti queste regole venga emarginato. Sicuro. E siccome tutti partecipano, chi non viene toccato tende a emarginare quelli che in qualche modo sono stati contagiati dal virus, no? Oggi, per fortuna, la cosa è diversa, ma è sempre stato così. Il sistema espelle chi viene toccato, ma non si modifica il proprio interno. Cioè, fuori quelli che sono stati beccati, e poi continuiamo, ecco. All'interno però di quest'ultima vicenda, grande inchiesta intorno al Mose, ad un certo punto ha deciso poi di raccontare. Per quale ragioni e in qualche modo tutto questo ha visto delle ripercussioni anche già su lei e sulle persone che sono vicine alla sua società? Prima di tutto il mio dissenso sul sistema Mose era preesistente agli eventi giudiziari. La motivazione per cui poi ho scelto una linea di apertura con la procura è stata proprio questa, perché dovevo difendermi rispetto a una ipotesi in cui la mia società rischiava di diventare un capro espiatorio che avrebbe finito per consentire a un sistema di sopravvivere a se stesso. Se lasciamo solo la magistratura, beh, combatte il reato ma non combatte la corruzione. Mettere fine a un sistema che alle imprese del consorzio non conveniva più. Fare in modo che non sia conveniente più per gli imprenditori sottostare, esatto, diciamo, a queste regole. Lei ha mai fatto il conto di quanto più o meno le è costato, diciamo, questa costante corruttiva in senso lato? Qualche percento dei costi di ogni impresa. Quante consulenze sono state date, quanti impiegati che non servivano sono stati assunti, quanti pubblicità sui giornali sono state fatte. Però dice non c'era bisogno, piano, perché se i soldi li mette lo Stato, se tu non fai quella spesa i soldi non ce li hai. È per questo che io dico che bisogna rendere conveniente, cioè l'opera pubblica non può essere fatta dallo Stato. Deve essere fatta dagli imprenditori sotto la supervisione dello Stato. Ma il risparmio del fattore C deve essere sul costo del servizio al cittadino. Certo, questo significa che più alto è il prezzo della corruzione, più corruzione c'è in giro, più pagheremo le autostrade, più pagheremo tutte le opere pubbliche. Però quello che dico è che non ho ancora visto un elemento libero dalla corruzione che abbia comportato la riduzione delle tariffe. Cammino su un pavimento di griglie, una incastrata all'altra, acciaio, ben luccicante. Incastrate, sì, incastrate, non incollate, né tenute insieme da viti o chiodi. Questo non è un pavimento qualunque. Così cammino, quasi sospesa. Stimo a una trentina di centimetri dal cemento armato, il vero scheletro appoggiato sul fondo del mare. Tra i miei piedi volanti e i piedi del mostro, arterie di tubi. Altro acciaio si intreccia ad acciaio. Distinguo serpentelli colorati, ma il nero, certo, è il colore dominante. Chieto, è l'anima elettrica. È andata dentro le viscere del mostro, sott'acqua, tra le viscere del Mose, appunto, Serena Uccello, prima di raccontare in questo libro, Corruzione, tutto quello che è emerso dietro questo sistema di dighe mobili. E in questo il Mose è un'emblematica opera italiana, per l'alto valore ingegneristico, sì, ma anche per i tempi infiniti e per gli scandali che l'hanno accompagnata. Mi preme anche sottolineare come il Mose sia anche il massimo dell'eccellenza che la tecnologia italiana può produrre. Da un lato, io sono stata a visitare il cantiere di Tre Porti, sono stata dentro il Mose, 12 metri sott'acqua, a vedere che cosa, la perizia ingegneristica che c'è stata dietro. Dal lato c'è questa eccellenza, dall'altro questa eccellenza è stata anche la vicenda più complessa in termini di sistema corruzione, sia per i risvolti investigativi, sia anche per gli anni, perché siccome comincia a pensare al Mose dopo l'alluvione del 66. In questo c'è anche una prassi tutta italiana, no? Cioè l'intervento sull'onda dell'urgenza. Salvare Venezia non è un'urgenza, certo, è una priorità. Costi quel che costi, costi scrivi. Costi quel che costi, esattamente. Stiamo parlando di un'opera a cui comincia a pensare negli anni 70. Si entra nella fase più operativa negli anni 80, che ancora non è stata completata. Se tutto va bene, arriviamo a fine opera nel 2018. Almeno questa è la data fissata. E l'esperienza ci insegna che più a lungo durano i cantieri delle grandi opere, maggiori sono i costi. Un paragone da affiancare al Mose è solo la Salerno-Reggio Calabria, forse. Oggi, grazie al cielo, lo diceva anche l'ingegnere, da un lato la crisi, dall'altro l'Europa, danno un'impostazione invece della gestione dei contratti che va in tutt'altra direzione, che è quella appunto della responsabilizzazione imprenditoriale di chi deve realizzare l'opera stessa. Ma la corruzione rappresentava la tassa occulta anche nell'antichità e accompagnava già all'epoca moltissimi affari, come raccontano le nostre mitiche storiacce di Giorgio Gioranò, professore all'Università di Trento e autore di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. Proviamo a immaginarci un telegiornale o un radiogiornale dell'Atene del V secolo a.C. Ci poteva capitare di sentire notizie come questa. Clamorosa svolta nell'inchiesta giudiziaria sulle grandi opere. Il responsabile dei lavori dell'Acropoli, l'architetto Fidia, è stato arrestato con l'accusa di corruzione. Si sarebbe intascato parte dell'oro stanziato per la costruzione del Partenone. Fidia media, come noto, è molto legato al capo del governo, Pericle. L'opposizione denuncia, Pericle non poteva non sapere, ma il capo del governo conferma la sua fiducia in Fidia e si dichiara pronto a portare in tribunale le prove della sua innocenza. Di questo processo a Fidia, uno dei più grandi artisti della storia del mondo, parlano molti autori antichi e quindi perdonerete il giochino del radiogiornale che serve a ricordarci come forse a volte non sia solo il passato che aiuta a leggere il presente, ma anche il presente che può servire a vedere in una luce diversa certi aspetti del passato. Che invece i corrotti esistano da sempre non serve dimostrarlo, ovviamente. Il fatto che i ladri ci fossero anche ieri non assolve i ladri di oggi, così come il fatto che sia esistito Caino non legittima l'omicidio. La storia antica, anzi, può magari aiutare a capire se e come la società può difendersi da certi vizi connaturati all'individuo, come l'avidità di denaro, causa notoria di molti mali. Per la cronaca, secondo gli antichi, il sommo Fidia fu poi condannato per corruzione e morì da detenuto in carcere. Pensate anche voi che la corruzione sia la nostra vera tassa occulta? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto.